Io non ho ancora capito cos'è la cultura. L'arte mi demoralizza e il suo rapporto con le istituzioni mi fa paura. Ma se il ministro andasse a trovare le risorse, magari riuscirebbe a fare nuove promesse. E magari anche il suo cane, che è scomparso nei weekend di Pentecoste. Tu puoi dire quello che vuoi, tira più di un carro di buoi. È per lei che si lavora, è per lei che si fatica. Non conviene farla rima, canzone malinconica. Io non capisco cosa intendi quando parli di eccellenza italiana, come se il Rinascimento fosse uguale ad una matriciana. Così è un po' come darti al curriculum vitae per noi che invece amiamo la fisica quantistica. Brindiamo al cinismo, che siamo 3 metri sopra il cielo, turismo. Tu puoi dire quello che vuoi, tira più di un carro di buoi. È per lei che andiamo a riga, è per lei che ascolti Liga. Non conviene farla rima, canzone malinconica, canzone malinconica, canzone malinconica, canzone malinconica. Puoi dire quello che vuoi, tira più di un carro di buoi. È per lei che si lavora, è per lei che si fatica. È per lei che andiamo a riga, è per lei che ascolti Liga. Non conviene.